in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Come sempre iniziamo dal Sole 24 Ore. Sapete che ieri fino a tarda serata c'è stato questo vertice tra il Premier Conte, i governatori, i sindaci, alcuni governatori e alcuni sindaci. Ci sono quindi alcune novità. Il Sole 24 Ore si concentra in particolare sulle insolvenze che si profilano per le piccole e medie imprese, e quindi il titolo PMI, la mina delle insolvenze. E poi c'è l'altro tema, lo avete sentito anche nei GR e sicuramente anche ieri sera, questo allarme di Patuelli, presidente dell'ABI, l'associazione che riunisce le banche italiane, che dice rischio tensioni sociali, quando infatti agli sportelli si potranno chiedere i prestiti, poiché abbiamo visto nelle settimane scorse che quando c'era, si apriva la possibilità di chiedere questo tipo di aiuti, lo abbiamo visto per il click day all'INPS, ma in generale quando appunto scatta l'ora in cui si possono chiedere questi benefici, ci possono essere innanzitutto dei limiti alla dotazione. È successo anche per i bonus dell'INPS, sapete che non tutte le persone che ne avevano diritto lo hanno ricevuto, e quindi c'è anche questo rischio. La immagine di copertina, non possiamo dire la foto, più un'infografica, è dedicata a un'analisi che poi trovate a pagina 8 di Maximilian Cellino e Moria Longo. Wall Street recupera e batte l'Europa, i mercati scommettono sulla forza americana. Il tema è questo, che Wall Street ha recuperato il 55,5% di quanto perso a inizio marzo, tornando sui livelli di agosto 2019. Il Corriere della Sera, riaperture, il governo frena, perché questo è un po' il tema. Si era parlato di comunque riaperture scaglionate anche a seconda della situazione delle varie regioni, adesso però pare che comunque sia tutto spostato dopo il 4 maggio, anche se, come avete sentito nel GR, si possono chiedere delle deroghe e riapriranno alcune attività che, se non sono proprio manifatturiere, comunque sono lavorative, per esempio appunto avete sentito del laboratorio di Gucci di Scandicci. L'editoriale del Corriere della Sera è dell'ex direttore Ferruccio De Bortoli, che è stato anche direttore del Sole 24 Ore, la paura di fare le scelte. Vi leggo l'attacco, ed è un po' il tema che abbiamo trattato anche nei giorni scorsi, anche settimana scorsa sul Sole 24 Ore. C'è questo proliferare di esperti. L'ultima task force creata è quella guidata da Vittorio Colao, che per ora si è trattenuto, o magari semplicemente non desidera farlo, dal dare interviste, quindi sta lavorando, però il fatto è che la sua task force, che dovrebbe essere dedicata soprattutto alla famosa fase 2, si unisce a numerose altre, scrive Ferruccio De Bortoli. L'unico assembramento che non si riesce a disciplinare è quello di esperti e consulenti coinvolti nell'emergenza pandemica. 15 task force per un totale di 448 persone, per non parlare dei comitati e dei tavoli. La cornice normativa è imponente, siamo già a 212 atti nazionali secondo Open Police, che è questo sito, trovate tutto su internet, l'indirizzo è openpolice.org, che appunto ha fatto il conto di quanti sono i provvedimenti emanati fino ad oggi. La fotonotizia, in questo caso è proprio una foto, è stata scattata a Codogno e fa riferimento al reportage che poi trovate alle pagine 8 e 9 di Cesare Giuzzi, Codogno, tutta la vita cambiata 2 mesi fa. Ricorderete il lockdown appunto di questa cittadina della Lombardia che fu chiusa perché lì c'era il primo focolaio. La Repubblica, un lavoratore su 2 chiede aiuti subito. E qui si mettono insieme tanti temi: cassa integrazione e bonus autonomi per 11 milioni e mezzo di italiani, stanziati 8 miliardi, ma bastano per 2 mesi. C'è anche un piano che viene richiamato in prima pagina dalla Repubblica, che sta già suscitando molte polemiche, come vedremo su altri giornali, piano del governo per regolarizzare 200.000 migranti destinati all'agricoltura. Questo è un grande problema perché mancano le persone che appunto lavorano, soprattutto lavoratori stagionali, per i vari raccolti che vengono a maturazione in queste settimane, in questi mesi, e ci sono vari allarmi lanciati anche nei giorni scorsi che frutta, verdura rischiano proprio di marcire se non si riesce a trovare, e quasi sempre sono manodopera extracomunitaria, se non si riescono, da qui l'esigenza di regolarizzazione, se non si riescono appunto a trovare persone che vadano a lavorare nei campi. Con La Repubblica, come ogni domenica in edicola L'Espresso, questa settimana il titolo è La Liberazione, e c'è un doppio significato: naturalmente la liberazione da questo lockdown che non sappiamo ancora esattamente quando avverrà, e anche il fatto che si avvicina la festa della liberazione che sarà sabato prossimo 25 aprile. La Stampa, le regioni, due punti, riapriamo il 27, però Conte dice no. Questo è un po' il riassunto di quello che è successo in questo vertice di ieri. L'editoriale molto interessante del direttore della Stampa, Maurizio Molinari, che si intitola Covid cambia gli equilibri fra potenze, e vi segnalo anche, per chi fosse interessato a approfondire questo tema, la copertina dell'Economist di questa settimana in edicola da venerdì, che è proprio dedicato, si pone una domanda, ma la Cina sta vincendo? Perché sicuramente da questa pandemia escono nuovi equilibri geopolitici, come dice appunto Maurizio Molinari, ma intanto comunque si profila l'ulteriore scontro e scambio di accuse tra gli Stati Uniti, che a più riprese per bocca di Donald Trump, ma non solo, accusano la Cina di aver lanciato l'allarme in ritardo e ancora oggi di dare delle cifre sbagliate. Sapete che due giorni fa Pechino ha rivisto al rialzo il numero dei morti a Wuhan, che è la città focolaio dell'epidemia di coronavirus, e quindi la Cina viene accusata, e nel frattempo la Cina inizia la sua, innanzitutto è ripartita dal punto di vista produttivo, anche se a ritmi rallentati e controllati, quindi in questo momento è forse l'unico paese a pieno regime, o comunque che appunto ha riacceso il motore, per così dire, dal punto di vista economico. E poi c'è anche una grande offensiva diplomatica in corso, ne parla Maurizio Molinari, ne hanno parlato altri, ne parla l'Economist, perché la Cina sta spedendo aiuti un po' a tanti paesi, sia dei famosi dispositivi di protezione personale e quelli per i sanitari, sia anche di altro genere. La fotonotizia in questo caso, La Stampa dico, è una foto scattata a Bergamo, e il titolo è Bergamo, non ci sono più bar dentro la chiesa del cimitero. La chiesa del cimitero è diventata famosa perché appunto conteneva talmente, c'era necessità di contenere talmente tante bar, che poi ricorderete tutti le foto di quel convoglio di mezzi militari che portavano fuori da Bergamo queste bare. Adesso però la stessa chiesa, c'è la foto di un mese fa piena di feretri, e adesso invece vuota. Il Messaggero, titolo molto simile a quello della Stampa, fase 2, la frenata del governo, Conte niente riaperture prima del 4 maggio, il piano sarà nazionale e i governatori si allineano. La fotonotizia è dedicata, lo avete sentito anche nei GR, a questo grande concerto virtuale, questa maratona musicale voluta da Lady Gaga, ma organizzata con la collaborazione di centinaia di artisti e delle Nazioni Unite. Lady Gaga ieri notte la maratona TV per raccogliere fondi per i sistemi sanitari, gli operatori sanitari di tutto il mondo. Avvenire, alla prova di maturità, quindi focus su le soluzioni che si stanno profilando, non c'è niente di certo per gli esami di maturità, ma anche in generale la fine degli anni scolastici. Sapete che in Italia le scuole non riapriranno, a differenza di quello che dovrebbe succedere in Francia, dove la data è fissata per l'11 maggio, dove in altri paesi come la Danimarca e la Cina naturalmente, dove hanno cominciato a riaprire le scuole, scrive Avvenire, Babele regionale sulla riapertura. Conte, la data resta il 4 maggio, ci sarà un piano nazionale, lieve miglioramento nei dati del contagio, anche se avete sentito la Lombardia fa eccezione. scuola, esame di stato orale e con commissari interni. La fotonotizia è dedicata al tema dei braccianti di un'eventuale sanatoria, qui addirittura si parla di 600.000, regolarizzazione ora necessaria. A questo è dedicato anche l'editoriale di Marco Tarquinio, direttore dell'Avvenire, Far più sano il domani, saggio regolarizzare chi vive e lavora qui. Il Manifesto, ve lo cito subito perché il tema è comunque quello dei braccianti, ma visto da un'angolazione diversa e in particolare di quelli di Rosarno, fragole e sangue. I braccianti di Rosarno sono allo stremo, hanno perso il lavoro, vivono nei ghetti in condizioni infernali, senza cibo né acqua e senza possibilità di uscire per paura del coronavirus. I più fortunati raccolgono fragole nelle serre calabresi, Rosarno è in Calabria, ma privi di dispositivi di sicurezza e tra sfruttamento e disinteresse istituzionale c'è scappato pure un morto tra i migranti. Ecco. Poi il titolo anche sulla, diciamo, non decisione, perché mancano appunto i dettagli, ricordo ancora una volta, in teoria c'è una task force, questa task force guidata da Vittorio Colao, che dovrebbe dare i dettagli su questa fase 2. Il titolo del Manifesto è "Le regioni riaprire subito i cantieri". In realtà hanno chiesto anche molte altre cose, ma anche sicuramente questo della riapertura dei cantieri. Il Fatto Quotidiano, i medici contro Fontana e Cirio, rispettivamente quindi governatore della Lombardia e del Piemonte. Fase 2 in Lombardia, solo slogan, niente medicina territoriale, pochi tamponi e dati incompleti. Per medicina territoriale si potrebbe intendere di tutto e di più. Il tema è soprattutto, facendo il confronto per esempio con una regione dove sembra aver funzionato, cioè l'Emilia-Romagna, tra quelle più colpite intendo, e in parte anche il Veneto, cioè il ruolo di tutti i piccoli presidi, con un termine con il quale intendo sia i medici di famiglia che ambulatori o comunque organizzazione perché la sanità raggiunga appunto i malati o comunque li tenga sotto controllo nelle loro case. In Lombardia è successo un po' il contrario, cioè si sono intasati gli ospedali, e questa è la copertina del Fatto Quotidiano. Il Giornale apre su una intervista Fiume, perché occupa le pagine 2 e 3 a Giuseppe Conte, fatta dal direttore del Giornale Alessandro Sallusti e da Adalberto Signore. Il titolo: Conte, due punti, io non mollo, no a governi tecnici, ci metto la faccia, Forza Italia opposizione costruttiva, Draghi è autorevole, Colao non sarà ministro, perché nei giorni scorsi si era parlato appunto anche di un possibile ruolo più politico, quindi di ministro, di Colao che invece è, come dicevamo, a capo di questa, da una settimana a capo di 8 giorni in realtà, a capo di questa task force per la fase 2. E poi a proposito di altre regioni, quindi la regione Lazio, il virus dei bugiardi, malati Covid nelle RSA, Zingaretti come Fontana, questo è naturalmente l'altro grande tema, quello delle inchieste in Lombardia, ma non solo, sulle RSA, e viene tirato in ballo Zingaretti perché sapete che è il governatore del Lazio, oltre a essere il presidente del Partito Democratico. Ci lasciamo un attimo, sentiremo anche un breve aggiornamento sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori, innanzitutto per l'ascolto, ma anche per quelli che stanno mandando messaggi al 349-238-6666, sms o whatsapp, grazie agli attenti ascoltatori che dicono attenzione perché Zingaretti non è il presidente del PD ma il segretario, certo, giusto, segretario del PD e governatore del Lazio. Passiamo alla prima pagina di Libero, dove c'è per l'appunto Zingaretti. Il titolo principale è "Il me ne frego di Conte", meno male che è tra virgolette per una volta, perché Conte non ha mai detto queste parole, è così che lo definisce Libero, l'atteggiamento di Conte: prima gli immigrati, gli italiani si arrangino. Il governo molla migliaia di connazionali all'estero che vogliono tornare, in compenso appronta la legge che regolarizza, ecco anche qui torna il numero che faceva anche Avvenire, 600.000 clandestini. Senza fretta ma al nord se ne andrà è l'editoriale di Vittorio Feltri, direttore di Libero, che inizia così: stupefacente il titolo della Repubblica di ieri, Italia quanta fretta. Stupefacente trovo io invece che in prima pagina ci siano due foto, anzi tre foto. Una è di Roberto Formigoni, ex governatore della Lombardia, intervistato da Pietro Senaldi quante balle per infamarci. Vi racconto io la verità sulla supersanità lombarda e dopo la vedremo questa intervista. L'altra foto è di Zingaretti. Il Lazio manda i suoi infetti nelle case di riposo regionali. Sarebbe successo, cioè quello che è successo anche in Lombardia, che malati dimessi perché prima ricoverati per Covid, ma non potendo restare in ospedale, venivano mandati nelle case di riposo. Secondo Libero è successo anche in Lazio. La terza foto è dedicata, è di Chiara Ferragni e Fedez, che oltre a essere marito e moglie, avere anche un bambino, vengono definiti da Azzurra Barbuto la coppia più bella del mondo, e si ripercorre il loro impegno, che è iniziato e dura, per sostenere la sanità lombarda, in particolare con la raccolta fondi lanciata da Chiara Ferragni e Fedez, nella quale loro stessi hanno messo molti soldi. È stato potenziato il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Sacco di Milano, ma non solo, perché continuano a proporre e prestare il loro volto e la loro popolarità. Tra l'altro, nella più recente classifica degli influencer continua a essere in cima a questa classifica, e continuano appunto a cercare di dare il loro contributo per diffondere le buone pratiche, i comportamenti che vengono definiti corretti in questa fase di emergenza. La verità, misteri, milioni di dita offshore e scandalo mascherine in Lazio. E poi la foto qui è di Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza, che ieri è intervenuto facendo questo paragone tra le persone morte a Milano negli anni della Seconda Guerra Mondiale sotto i bombardamenti e quelle morte in due mesi per il Covid. Arcuri straparla sui morti di Milano, ecco i veri numeri del caso Lombardia. Il Secolo XIX, ve lo cito, è il quotidiano di Genova, perché sapete, nei giorni scorsi si è parlato molto di questa possibilità comunque di aprire le spiagge e gli stabilimenti balneari per la stagione estiva e comunque di andare in vacanza, e si sono fatte queste ipotesi un po' fantasiose sulla divisione tra ombrelloni con delle lastre di plexiglass come quelle che ormai si stanno diffondendo nei negozi per i tassisti. E adesso invece il Secolo XIX dà voce al sindaco di Lerici, questa località vicino a Genova, spiagge riservate ai residenti, e la foto ritrae una persona che sta facendo una sanificazione e manutenzione delle cabine sulla spiaggia di San Terenzo, che è appunto a Lerici. Poi trovate questo articolo a pagina 13. Il mare di Lerici è autarchico, spiagge solo per i residenti, così ha detto Leonardo Paoletti, il sindaco appunto di questo paese. E poi nella stessa pagina c'è un articolo di Silvia Pedemonte che spiega: Portofino Covid free, nessuno è positivo tra i 200 residenti invernali, possiamo dire così, del famoso borgo, anche qui vicino a Genova, in piazzetta con tavolini e sedie deserti, soltanto sciabordio del mare e la voce dei gabbiani. Ma andiamo adesso, torniamo ai vari quotidiani sulle pagine interne. Vi dicevo, il Sole 24 Ore, questo approfondimento di Stefano Elli sulla difficoltà delle piccole e medie imprese, PMI al tappeto, bomba a tempo di insolvenze, a pagina 3. Mentre a proposito di sanità, a pagina 6 Marzio Bartoloni racconta: in un mese 20.000 assunzioni. Il ministro della Salute Speranza dice: ora più cure a casa, quello che dicevamo, appunto uno dei risvolti della cosiddetta medicina territoriale. L'intervista è a Silvestro Scotti, segretario della Federazione Medici di Medicina Generale, che dice: basta confusione, gestione della fase 2 ai medici di famiglia. Quindi in un certo senso un consiglio alla task force che si deve occupare di questa fase 2. È molto interessante l'approfondimento di Stefano Carrer, che trovate a pagina 7, che parla di quello che sta succedendo in Grecia. Atene contiene il virus, ma l'economia crollerà. Il paradosso: misure tempestive e rigide hanno limitato i contagi a poco più di 2.200, ma nonostante questo l'IPIL va verso un crollo annuale del 10%, quindi simile a quello previsto anche per l'Italia. Altrettanto interessante, a pagina 9, sempre del Sole 24 Ore, l'approfondimento di Paola Dezza, che è l'esperta del Sole 24 Ore di tutto il settore immobiliare, che parla di come l'ufficio cambierà volto al tempi del Covid-19, quindi in questo momento di emergenza, ma sicuramente anche quando si riprenderà, perché ormai lo abbiamo capito tutti, non si tratterà di toccare un interruttore e far tornare tutto come prima, sarà un ritorno alla cosiddetta normalità molto lento, o forse proprio un cambiamento completo di tutte le abitudini, comprese quelle di lavoro. L'ufficio cambia volto per rispettare le nuove distanze. Smart working e regole sanitarie spingono sul cambiamento. I nuovi format prevedono separazioni tra le scrivanie, percorsi prestabiliti per evitare gli incontri e spazi relax in cui stare soli. Un altro settore che è già stato colpito e quindi lo sarà anche nei bilanci poi di questo 2020 è quello delle fiere, e quindi l'approfondimento di Carmine Fotina, che trovate a pagina 11, una piattaforma online per salvare le fiere. Sapete che le uniche che si sono svolte regolarmente sono quelle di gennaio, da lì in poi sono state tutte o rimandate o annullate, le fiere di tutti i settori. E quindi questo progetto dell'ICE, un sistema unico per rilanciare le rassegne virtuali. Naturalmente ci dovrà essere un modo per anche vedere quali fiere possono essere fatte in modo virtuale, e non sarà comunque la stessa cosa, sia perché le persone non si incontreranno personalmente, sia perché un conto, soprattutto le fiere di prodotto, non è certo la stessa cosa vedere dal vivo un oggetto, una macchina, un accessorio di moda, quello che è, rispetto a vederlo in modo virtuale. Ma in qualche modo bisognerà fare, e quindi questa idea di una piattaforma. La pagina Sport e Business, che esce ogni domenica, Marco Bellinazzo ci racconta: a rischio anche 200 milioni di compensi degli agenti, e la foto è di Mino Raiola, che è naturalmente uno dei più famosi agenti del calcio. Per arginare la crisi del settore, la Federazione Italiana Gioco Calcio chiede al governo la sospensione delle commissioni per i procuratori e la deducibilità dei costi per i servizi connessi alla sottoscrizione dei contratti tra squadre e calciatori. La sezione Lifestyle, due pagine comunque in qualche modo legate all'emergenza Covid, la prima di Fabrizia Villa, giardinaggio sul terrazzo, primo non improvvisare. In tempi di lockdown lo spazio all'aria aperta, per chi ha la fortuna di averlo naturalmente, diventa un punto di dialogo con il mondo esterno alla casa. E invece la seconda pagina, sapete come si sono organizzati, quanta capacità di reazione e vitalità hanno mostrato tutti servizi di consegna a domicilio, vale anche per le pescherie online. Un mare fresco e ricco di salute è servito. Maria Teresa Manuelli ci racconta: dalle ostriche ai molluschi, dal pesce già pulito e confezionato a quello cucinato, le consegne a domicilio mettono anche in salvo la filiera ittica e aiutano i ristoratori. Vi dicevo, dal Corriere della Sera, pagina 8 e 9, il reportage da Codogno, la nostra vita a Codogno due mesi dopo. Perché, come dicevamo, è stato il primo paese a chiudere perché c'era il cosiddetto paziente 1, era da poco passata la mezzanotte del 20 febbraio, quando l'assessore al welfare della regione Lombardia, che si occupa anche di sanità come sapete, Giulio Gallera, dava la notizia di un 38enne positivo al Covid-19 ricoverato all'ospedale di Codogno, che è un piccolo paese lombardo vicino a Lodi. Era il primo italiano ufficialmente contagiato da coronavirus. Nel corso della giornata del 21 sono poi saliti, quindi il giorno dopo, 21 febbraio, a 15 casi positivi in Lombardia. Poi dal Corriere della Sera vi segnalo una bella intervista di Gian Giacomo Schiavi a Piero Bassetti, che oggi ha 91 anni, è stato il primo presidente della Regione Lombardia quando vennero istituite appunto le regioni e il ruolo dei presidenti, o meglio venne istituito questo ruolo. Errore privilegiare la cura negli ospedali rispetto alla salute, cioè il territorio. Diciamo che siamo bravi e ora ce lo ributtano addosso. Questo, sapete, è un po' un tema che ricorre anche nell'intervista, vedremo, a Formigoni, cioè l'idea che la Lombardia ha sempre sbandierato questa sua eccellenza sanitaria, adesso che dall'emergenza sanitaria non si riesce a uscire in Lombardia, sembra appunto che piovano critiche, un po' quello che in tedesco si chiama Schadenfreude, cioè la essere quasi contenti per quando qualcun altro è in difficoltà. Molto interessante questa intervista di Francesca Bonazzoli, per parlare un po' d'altro, ma in realtà poi c'è comunque un risvolto legato all'emergenza. È un'intervista a Nicoletta Ancona, che è conservatrice dell'Acquario di Milano, e ci spiega l'ingegno del polpo. È il mio preferito tra i pesci, una creatura molto curiosa, bisognosa di stimoli. Se si annoia, pensate, si lascia morire. Naturalmente l'acquario in questo periodo è chiuso, e però appunto c'è chi si cura comunque dei suoi ospiti, che sono i pesci di ogni genere. Vi dicevo, la maratona voluta da Lady Gaga per sostenere l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è naturalmente parte dell'ONU, trovate a pagina 41 il racconto di Andrea Lafranchi. La maratona voluta da Lady Gaga lotta al virus con musica e messaggi dalle case delle star, e tanti sono stati anche naturalmente gli artisti italiani coinvolti, per esempio Zucchero, che ha mandato un video della House of Blues, lo studio nella sua tenuta di Pontremoli. Dalla Repubblica un approfondimento, abbiamo visto sul Sole 24 Ore un approfondimento sulla Grecia, alla Repubblica un approfondimento sul Giappone. Filippo Santelli racconta: Giappone a rischio strage, i forzati dell'ufficio non riescono a stare a casa, cultura del lavoro e burocrazia, ma senza il distanziamento il governo teme 400.000 morti. E poi un approfondimento invece su Londra, in questo caso dal corrispondente della Repubblica Antonello Guerrera, pagina 19. Solo Hyde Park, che è uno dei più grandi parchi di Londra, è ancora vivo. Anche i pub si sono arresi. Nella City è domenica da settimane, a Notting Hill, il quartiere reso famoso dal film, dominano le tenebre. Quindi tutti i cantieri e i luoghi famosi di Londra, tutti i luoghi famosi di Londra sono appunto, come del resto io vedo la situazione di Milano, come succede a Milano, da Soho a Covent Garden fino alle vetrine di Regent Street e Old Bond Street, cioè le due strade dello shopping, tutto chiuso nella città che neppure la guerra aveva fermato. Noi invece ci fermiamo un attimo per una pausa sul traffico. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato dell'intermediazione immobiliare in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buona domenica. Sono sempre felice quando vedo l'attenzione con la quale gli ascoltatori ci seguono, e chi mi dice attenzione, il polpo non è un pesce ma è un mollusco, vero, verissimo, io lo vedo diciamo come un abitante del mare, o in questo caso dell'acquario di Milano. Vi dicevamo del cambio degli equilibri geopolitici, vi segnalo a pagina 11, Francesco Semprini: le imprese americane chiedono a Pechino risarcimenti per i danni del virus. E poi questa è una curiosità, sta già succedendo in Germania ma si sta pensando di farlo negli Stati Uniti, ma forse anche in Italia, drive-in, la pazza idea per tornare al cinema. Negli Stati Uniti molte arene, i drive-in sapete sono, ricorderete forse tutti la scena di Grease in cui John Travolta e Olivia Newton-John vanno appunto in uno di questi drive-in, sono dei grandi spazi in cui si può andare con la macchina e su uno schermo si vede il film. Vi dicevo, prima di passare ai supplementi domenicali, volevo leggervi qualche passaggio dell'intervista di Roberto Formigoni a Libero, ma anche dal giornale vi segnalo questo interessante approfondimento, una delle tante situazioni che abbiamo dimenticato, quella dei diritti umani in Turchia. E Lorenzo Formico, alla pagina 25 del giornale, ci racconta: addio ai diritti, il nuovo medioevo delle donne turche, non solo il velo, la sharia è legge e la libertà femminile un ricordo, grazie a Erdogan, il presidente della Turchia, che sostiene l'uguaglianza di genere, attenzione, è contro la natura umana. E l'intervista invece appunto di Pietro Senaldi a Roberto Formigoni, ex presidente della Lombardia, ora agli arresti domiciliari per una condanna definitiva per corruzione, dice, trovate pagina 7 di Libero, vi svelo la verità sulla super sanità lombarda. Per esempio chiede Pietro Senaldi: qualcosa però in Lombardia non ha funzionato, la famosa zona rossa della Bergamasca? Formigoni risponde: ma quello non è un errore lombardo. Il presidente Fontana, scelta che condivido, ha deciso all'inizio di gestire l'emergenza con il governo. Mi sembra che non abbia ricevuto una risposta decisa alla richiesta di zona rossa. Hanno perso tempo tutti. Vorrei però dire che è il momento della collaborazione. Anche per questo non capisco i muri che vengono fatti alle richieste della Lombardia. Qui Pietro Senaldi non glielo chiede, forse se mai mi fossi trovata in questa situazione glielo avrei chiesto io, avrei detto: quali richieste? Perché fino a poche settimane fa era di misure più stringenti. Ricordiamo per esempio che il governatore Fontana ha emanato un'ordinanza per non riaprire le librerie, che invece riaprono in altre regioni, ha emanato un'ordinanza per l'obbligo di mascherine, e poi però, come avete visto nei titoli degli altri giornali, adesso chiede invece una riapertura più veloce dell'economia. Quindi quali richieste? Ma la domanda sulla medicina territoriale: si dice che non abbiano funzionato i medici del territorio, quelli che dovevano curare i malati a casa, e Formigoni risponde: questo ha un fondamento, ma io non c'entro niente. Nella mia riforma i medici di famiglia avevano un ruolo centrale sia nella prevenzione che nella convalescenza, e il loro lavoro era adeguatamente remunerato. Di chi è la colpa? Maroni, che è arrivato dopo di me, in nome della discontinuità ha affidato medicina territoriale ospedaliera alle ASST, istituendo un fondo unico sui cui stanziamenti ovviamente le cliniche, perché ovviamente, hanno fatto la parte del leone, e la medicina del territorio è stata mortificata. Va bene, ricordo a tutti, secondo me è molto istruttiva questa intervista. Ricordo anche che una pagina intera su un giornale che è finanziato anche con fondi pubblici e che appunto dà voce a un signore che, oltre a essere ex governatore della Lombardia, in questo momento è agli arresti domiciliari per una condanna definitiva. Passiamo ai supplementi domenicali, alla domenica del Sole 24 Ore. Come sempre cominciamo dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Tenerezza. La citazione è questa: con tutto l'oro del mondo non si può comprare il battito del cuore, né un lampo di tenerezza, e scrive Ravasi. Spogliato dal velo dell'enfasi romantica, questo aforisma dello scrittore francese Alphonse de Lamartine fa brillare soprattutto una parola divenuta desueta, almeno nella pratica, ai nostri giorni: la tenerezza. Essa comprende sentimento, delicatezza, passione, dolcezza, affetto, premura e sì, anche le coccole. È qualcosa di intimo, fine, pacato, tenue, proprio come suggerisce l'etimologia. Penso alle lettere che mia madre inviava e riceveva da mio padre lontano, costretto alla guerra. Oggi, col cellulare e il suo linguaggio prosciugato e schematico, due innamorati tarpano questa straordinaria capacità umana. Dostoevskij, nei Fratelli Karamazov, ricordava che la tenerezza è la forza di un amore autentico. Non è quindi svenevolezza, che è una scimmiottatura della tenerezza, è la potenza dell'amore che tutto trasfigura ed esalta e fa fiorire anche una vita arida, proprio come cantava Neruda. Io saprò accarezzare i nuovi fiori perché tu mi hai insegnato la tenerezza. Ma la copertina vera e propria è dedicata a Dante. Celebrazioni nel 2021, quindi guardiamo già all'anno prossimo, cadono i 700 anni della morte di Dante, oltre 300 i progetti programmati in Italia e nel mondo con al centro la commedia. All'ascoltatore che mi chiede su quale giornale è pubblicato l'articolo sulla Turchia, è su Il Giornale. Sempre dal Domenicale vi segnalo, abbiamo parlato di medici di medicina territoriale, molto interessante questo intervento di Roberto Casati, che dice: quei dilemmi morali che toccano ai medici. Durante la crisi il governo del pianeta non è nelle mani dei politici, oddio, questo si può essere d'accordo o no, ma sicuramente i medici devono affrontare dilemmi. Abbiamo parlato spesso, soprattutto quando c'era l'emergenza, non solo in Italia, delle terapie intensive, quindi della necessità di scegliere chi avrebbe avuto, perché il numero era limitato, di respiratori, chi avrebbe avuto chi sarebbe stato collegato al respiratore che può salvare la vita e chi invece no. Sempre dal Domenicale vi segnalo questo bell'articolo di Antonio Perazzi, Piantiamo la quarantena. La possibile via d'uscita è quella di seminare in giardino specie esotiche riportate dai viaggi, in modo che si materializzano i luoghi che adesso sogniamo di rivedere. Anche qui, per la fortuna, per chi naturalmente ha la fortuna di avere un giardino, o come dicevamo per la pagina di Lifestyle dedicata ai terrazzi, un terrazzo. E vi segnalo un altro intervento, sempre in tema verde, diciamo, di Francesca Milano: che strano, s'alza un muro di insalata a Milano, la cosiddetta agricoltura verticale. La coltivazione verticale consente il risparmio di suolo e di acqua. La prima pagina della lettura, la copertina della lettura del Corriere della Sera, in edicola oggi ma poi tutta la settimana, come sempre affidata a un artista, questa settimana è Antonio Riello. E la prima parte, sapete che la lettura, questo primo articolo, che è sempre molto lungo, è una conversazione di Paolo Giordano, matematico e scrittore, con Jared Diamond, che è considerato uno dei più influenti divulgatori scientifici. Molti suoi libri sono stati tradotti anche in Italia da Einaudi. L'ultimo è Crisi, come rinascono le nazioni. E questa conversazione interessantissima, intitolata Cooperare e poi cooperare, così vinciamo. Jared Diamond ha descritto come sono nate e si sono diffuse le epidemie, ha raccontato come le società possono scegliere di morire e poi come rinascono, ha esplorato guerre, comunità tradizionali e disuguaglianze. Ecco perché Jared Diamond, di fronte al coronavirus, si definisce un ottimista cauto. Senza collaborare si annega, ma per fortuna stiamo collaborando. Sapete anche il tema, per esempio, della ricerca di un vaccino. Non è mai successo, sicuramente non è successo per la SARS, né per un vaccino che poi non è mai stato trovato, per esempio per l'HIV né per l'Ebola. Sapete che in questo caso veramente medici, ricercatori, ospedali, istituti, università di tutto il mondo stanno collaborando, così pare. E poi Telmo Pievani, che tra l'altro è una voce che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, etologo e divulgatore, 8 miliardi di umani, il Bengodi dei virus. Telmo Pievani ci, in un'intervista a Jan Tattersall, che è un grande esperto di evoluzione della nostra specie, la specie Homo sapiens, lancia l'allarme. Livelli demografici tanto elevati implicano rischi crescenti di gravi contagi. Siamo animali molto particolari, dotati di libertà e quindi investiti di responsabilità. Ma non abbiamo imparato a gestire questi vantaggi, perché facciamo calcoli a breve termine e tendiamo a credere che i problemi si aggiusteranno. Non ci salverà certo la selezione naturale, bisogna prendere coscienza dei pericoli che ci minacciano o arriverà qualcosa di peggio di Covid-19. Questo riporta un po' al tema che attraversa tanti dibattiti, cioè l'idea che, usciti da questa emergenza, oltre a ricominciare, come abbiamo detto, in modo rallentato, ci si prepari anche per non farsi trovare eventualmente impreparati se dovesse arrivare un'altra epidemia. La copertina di Robinson, il supplemento culturale settimanale della Repubblica, in edicola da ieri ma tutta la settimana, molto bello questo tema, là dove c'era l'erba è tornata, e racconta un po' e mostra anche con delle fotografie anche dei lettori, la natura si rialza, gli animali girano in città e il cielo respira, ecco il mondo senza di noi. Era l'ultima segnalazione per oggi, anche se avevo messo come sempre da parte molte più cose. Grazie a Peter Bescapè in regia, grazie a tutti voi per aver ascoltato e per aver mandato messaggi. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.